Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, aiuti straordinari per l'agricoltura e la pesca, le disposizioni per la qualità dell'aria in Emilia Romagna, cultura e memoria e poi alcuni dei temi al centro dei question time in aula. Ma partiamo subito con gli aggiornamenti sulla composizione dell'Assemblea. Dopo il recente arrivo di Marta Evangelisti, nei banchi di Fratelli d'Italia ha preso posto anche Luca Cuoghi, già assessore al Comune di Sassuolo, che subentra Michele Barcaiuolo, eletto in Parlamento. E anche tra i banchi della Giunta siede un nuovo assessore. Dopo l'elezione in Parlamento di Elly Schlein e le sue dimissioni, il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha nominato il consigliere regionale Igor Taruffi, assessore con deleghe al Welfare, Politiche Giovanili e Montagna. Irene Priolo, già assessora, è stata nominata vicepresidente della regione. Cambiamo argomento. In arrivo 5,7 milioni di euro per interventi a favore del settore agricolo, agroalimentare e ittico. Grazie alla nuova legge approvata all'unanimità dall'Assemblea Legislativa, i fondi straordinari ricavati dal bilancio regionale andranno alla ricerca per il contrasto alle fitopatie e agli effetti del cambiamento climatico, alla progettazione di impianti irrigui e alle bonifiche, nonché alla riduzione del costo del gasolio per le barche da pesca. Secondo Matteo Daffadà del Partito Democratico e relatore di maggioranza del provvedimento, la legge fornisce risposte concrete ad un settore particolarmente in sofferenza, le prese con il caro carburanti, la carenza di svariate materie prime, mangimi e fertilizzanti e non solo. L'aiuto agli agricoltori che volessero acquistare o fare strutture per prevenire appunto il tema della peste suina e soldi anche 600.000 euro all'anno per le ATC, per le province per quanto riguarda i piani di controllo dei cinghiali. Sappiamo quanto i cinghiali mettono in difficoltà l'agricoltura soprattutto quella di montagna, e quindi è importante aiutare, dare la disponibilità appunto di fondi per appunto i piani di controllo. Con un ordine del giorno approvato all'unanimità, l'Aula ha anche sottolineato che i nuovi interventi urgenti di carattere straordinario non possono considerarsi esaustivi. L'Assemblea ha quindi sollecitato alla Giunta regionale quanto prima lo stanziamento di ulteriori risorse. Sentiamo in proposito il relatore di minoranza Fabio Rainieri della Lega. Abbiamo approvato un ordine del giorno che finanzierà di oltre 3 milioni in più rispetto ai 5,7 che sono la parte finanziaria del provvedimento per ulteriori aiuti al settore dell'agricoltura, che mai come in questo momento, in questa fase di aumenti sproporzionati delle energie e difficoltà nel reperimento delle materie prime, sta subendo un momento di crisi importante. Sempre in tema di agricoltura, Marco Mastacchi di Rete Civica ha rivolto un question time alla Giunta per tutelare i liberi professionisti che operano per le imprese agricole emiliano-romagnole. La richiesta arriva dopo che il Consiglio di Stato, nel marzo scorso, ha stabilito che per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura, i centri di assistenza agricola debbano impegnare solo lavoratori dipendenti. I liberi professionisti, al pari dei commercialisti, hanno la delega per assistere gli agricoltori in ambito agricolo, quindi non fiscale come i commercialisti, e il fatto di togliere loro questa opportunità crea di fatto un oligopolio delle associazioni agricole, cosa che non è assolutamente auspicabile, perché chiaramente la varietà di offerta migliora le prestazioni e i rapporti per tutti. Passiamo alla sanità. Giulia Pigoni della lista Bonaccini presidente, con un question time, ha chiesto alla Giunta di riferire sulle azioni intraprese per contrastare il fenomeno delle aggressioni ai danni di medici e infermieri nei pronto soccorsi e nei reparti ospedalieri. La Regione sta mettendo in campo linee guida, concordate ovviamente con le aziende sanitarie locali, però ancora oggi il problema persiste e anzi anche l'assessore ha confermato che purtroppo è un trend in crescita anche nella nostra Regione. Credo che sia assolutamente necessario una collaborazione più attiva anche con le forze dell'ordine per garantire a questi professionisti di lavorare in piena sicurezza. Cambiamo argomento. Il piano Aria 2030 supera l'esame dell'Assemblea Legislativa. Sarà dotato di un finanziamento di 150 milioni di euro, di cui 67 nel primo triennio, che aumenteranno a 68 nei tre anni successivi. Trasporti, agricoltura e riscaldamento domestico sono i settori su cui sono previsti maggiori interventi per limitare le emissioni. Per ridurre il biossido di azoto, l'impegno specifico è quello di togliere dalla circolazione sia i veicoli Euro 4, sia i tanti veicoli Euro 0 ancora presenti sulle nostre strade. Per quanto riguarda il riscaldamento domestico, domestico, il piano mette sotto osservazione i cammini aperti. Sono 84.000 e secondo i dati inseriti nel piano, ogni cammino impatta come 2.400 stufe a gas. Vista l'attuale crisi energetica, l'Assemblea, con un ordine del giorno, ha chiesto l'erogazione di bonus per le famiglie per abbattere i costi delle bollette e il superamento del divieto nazionale di utilizzo di stufe e caminetti. Ecco cosa ha dichiarato Andrea Costa del Partito Democratico. Abbiamo provato ad avere uno sguardo strabico a oggi per dare concreto aiuto alle famiglie, evitando che finiscano nella cosiddetta povertà energetica, chiedendo al governo una moratoria sui distacchi e un bonus per pagare le bollette del gas, ma anche risorse peculiari per il cosiddetto bacino padano. Dall'altra parte fissiamo obiettivi nel nuovo PAIR molto importanti, li dotiamo di una dote finanziaria di 150 milioni di euro che erogheremo attraverso incentivi. In agricoltura e nella filiera zootecnica si punta a ridurre le emissioni di ammoniaca. Su questo tema è stato approvato anche un ordine del giorno presentato dalla Lega. Ascoltiamo Emiliano Occhi. Siamo un po' preoccupati per quelli che sono gli impatti possibili sull'agricoltura, perché questo ci saranno impatti forti sull'agricoltura, quindi chiediamo di essere progressivi nell'applicazione delle norme e farle insieme agli imprenditori, e anche sui trasporti lavorare insieme a tutte le associazioni anche dei trasporti. Giudizio positivo, pur riscontrando alcune criticità, arriva da Europa Verde, la capogruppo Silvia Zamboni. Finalmente ci sono molti fondi a disposizione, le ombre riguardano il fatto che da questo PAIR sono escluse autostrade, aeroporti e porti. Togliere dal quadro d'insieme i dati che fanno riferimento a queste infrastrutture lascia sicuramente un vuoto. Critiche al piano arrivano anche da Fratelli d'Italia. Netta la posizione del gruppo, che ha anche chiesto con un ordine del giorno approvato dall'Aula uno studio per indagare il nesso di causalità tra gli effetti dell'inquinamento atmosferico e le condizioni di salute degli emiliano-romagnoli. Sentiamo Marta Evangelisti. Ci sembra doveroso che laddove si parla di infrastrutture, anche di nuove infrastrutture, ci sia anche un piano che affronti il nesso di causalità tra patologie e cause di inquinamento. E a proposito di qualità dell'aria e di misure di mitigazione e adattamento agli effetti climatici, gli spazi verdi e la forestazione urbana hanno un ruolo decisamente importante. Lo ha ribadito Giulia Gibertoni del gruppo Misto, che in un question time ha chiesto alla Giunta chiarimenti sulla tutela del patrimonio arboreo nelle città. Sentiamola. È ora che la regione intervenga, perché il verde pubblico non viene gestito bene dai comuni, molto spesso i tagli sono indiscriminati, non viene data comunicazione con congruo preavviso dei tagli e delle relazioni agronomiche che dimostrino che quegli alberi sono veramente malati, in più non sempre vengono sostituiti. È necessario fare la giusta formazione e dare i giusti incentivi ai comuni perché queste cose non si ripetano più. Sul fronte del contrasto al rincaro dei costi dell'energia che gravano pesantemente sui bilanci delle famiglie, Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, con un question time, ha interrogato sulla possibilità di intervenire per sollecitare le multi utilities ad utilizzare gli extra profitti maturati nell'ultimo periodo. Il sottosegretario ha dato una risposta che ci soddisfa solamente in parte, nel senso che c'è un dialogo in corso con ANCI proprio per intervenire. Ancora non vediamo concretamente le decisioni che verranno prese, aspettiamo di capire effettivamente come ci si muoverà, e quello che io spero è che non si rimandi la palla nazionale, ma che si agisca proprio dal territorio per il territorio. Nell'ultima seduta l'Assemblea ha anche dato il via a maggioranza alla partecipazione della Regione all'Associazione Liberation Route Italia, con l'obiettivo di creare ed espandere una rotta di commemorazione che colleghi le regioni in cui si è svolta la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista. Sentiamo le dichiarazioni di Federico Amico di Emilia Romagna Coraggiosa. Un modo per valorizzare quanto già oggi viene svolto dai comuni, dai territori su questi temi e per costruire una vera e propria ricostruzione appunto storica oggettiva, con il contributo di tanti studiosi, attivisti, scuole, cittadinanza. In Emilia-Romagna l'attenzione si concentrerà in particolare sulla linea gotica. Michele Facci della Lega esprime le sue perplessità. Non sono stati forniti a nostro avviso quegli elementi di obiettività storica e di verità che dovrebbe appunto accompagnare qualsiasi tipo di ricerca storica, soprattutto su fatti drammatici quali quelli della Seconda Guerra Mondiale. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. Assemblea On Air.